Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vi segnalo l'ennesimo scandaloso spreco e privilegio che i partiti si sono autoconcessi. Il condono di tutte le multe per affissione abusiva di manifesti elettorali, contenuto nella mille proroghe, è passato con voto bipartisan. Solo a Roma, 2.188.000 euro messi a bilancio e ora spariti. Mi piacerebbe che ne parlaste, anche perché finora non mi pare vi sia stata data grande attenzione. Mi rendo conto che vi sono argomenti più importanti e pressanti, ma ogni tanto inserire nel dibattito qualche notizia diversa può essere una buona cosa, immagino. Pietro. Ora, anche in Europa e nel mondo, si staranno accorgendo di cosa può essere stato per gli italiani avere la Fiat in Italia. Oltre 100 anni di esperienza nel prelievo con destrezza di fondi e sussidi statali, parastatali ed europei finora, da inserire per ogni capitolo di bilancio, ove esistente. Perciò ogni concorrenza di magna magna sarà tempo perso. Persino i sindacati della Triplice sono andati a parlare con gli omologhi Opel per spiegare loro come fare per trarne anche loro vantaggio. Giuseppe. Provo a presentare un'idea per i barconi provenienti dalla Libia. Premesso che i respingimenti non mi piacciono, ma non ne sono contrario, sono convinto che tra i migranti ci siano diverse situazioni o motivazioni che dovrebbero essere vagliate, come salute, necessità di asilo politico, eccetera. Penso che sia improprio parlare di italiani, razzismo e xenofobia come se si trattasse di un'equazione direttamente proporzionale. La nostra democrazia è salda e per gli altri non può che essere un modello invidiabile. Se Malta riceve dall'Unione Europea parecchi milioni di euro in contributi per garantire i recuperi e gli interventi in mare, dovrebbe essere così anche per noi. Sono stufo del non sostegno europeo, quasi che il presidio della frontiera sud dell'Unione Europea sia solo un nostro problema. Fatte queste premesse, provo a disegnare un quadro nel quale tutti gli attori in campo contribuiscano a riportare a un percorso più civile il Balcano che si sta facendo. 1. Qualunque barcone deve essere raccolto e accompagnato in un centro di accoglienza, che sia però veramente accogliente. 2. In 2-3 giorni dobbiamo sanare le prime necessità degli esseri umani raccolti in mare: igiene, salute, corredo di indumenti adatti ai nostri climi, interazione linguistica. 3. Nei 4 giorni successivi dovrà essere elevato ad ognuno dei raccolti il reato di ingresso clandestino. Andranno censiti, chiedendo loro i dati anagrafici, prelevando anche le impronte e il DNA. È sufficiente la saliva. Dopodiché potrà essere proposto a coloro ai quali nei primi giorni è stata rilasciata l'idoneità sanitaria la possibilità di essere destinati, con una White Access Card, a un paese della comunità europea nel quale possano trovare migliori situazioni di lavoro. La White Card dovrebbe essere sostitutiva della pena per il reato di ingresso clandestino, sospendendone il provvedimento, che verrebbe applicato in caso di ritorno sul territorio. Nel contempo dovremmo avviare in tutte le piazze d'Italia una raccolta di firme sul sì o no all'accoglienza. Poi potrebbe accadere che ai firmatari, tra i quali assicuro la mia adesione, venga destinata in affido, in qualità di Italian Tutor, una di quelle persone malate o comunque rimaste nel nostro paese per asilo. Tutto sommato, in una famiglia media di 3 o 4 persone, mangiare in 4 o in 5, uno in più, non ne stravolge l'economia. I benefici? Beh, avremo messo altre persone, comunque meno fortunate di noi, nella condizione di non vivere in ghetti con la necessità di far di tutto pur di mangiare. Poi, mescolandoci, avremo la possibilità di capirci e conoscerci. Massimo. La decisione del governo italiano di respingere i disperati che fuggono dalla guerra, dalle torture, dalla fame e dalla miseria ci fa male, ci offende e ci ferisce. Non parliamo di immigrati, ma di persone. Donne, uomini e bambini hanno paura, freddo e fame. Ci chiedono asilo e protezione e li respingiamo senza pietà. Come italiani proviamo vergogna. Nessun governo si può permettere di venire meno ai doveri di solidarietà, di accoglienza e di difesa dei diritti umani che sono iscritti nella nostra Carta Costituzionale e nel diritto internazionale dei diritti umani. È quanto contenuto in una dichiarazione della Tavola della Pace e dei partecipanti al meeting nazionale per un'Europa di pace, che si è svolto nella città di San Francesco d'Assisi. Nessun governo può togliere a nessuno il diritto al cibo, alla salute, all'istruzione, a un lavoro dignitoso. Questi fatti ci offendono e ci feriscono, è detto nella nota, così come ci sentiamo offesi e feriti da tutte quelle leggi, quei provvedimenti, quelle dichiarazioni, quelle parole velenose che stanno alimentando nel nostro paese un clima di violenza, discriminazioni, intolleranza, insofferenza, razzismo, divisione e insicurezza. Un governo senza umanità minaccia di toglierci la nostra umanità. Non possiamo accettarlo. Diarra, uno straniero. Solo un'osservazione. L'ONU, che critica il governo italiano, è la stessa ONU che evitò accuratamente il termine genocidio nelle proprie risoluzioni per non incorrere nell'obbligo statutario di intervento durante il genocidio di 1 milione di Tutsi alcuni anni fa in Ruanda? Oppure è la stessa ONU i cui caschi blu assistettero senza la minima reazione al massacro di Srebrenica? Questo dovrebbe essere risposto all'ONU. Gianluca, Genova. Ascoltando la vostra trasmissione sui barconi giovedì sera, facevo fatica a pensare che stavate parlando di persone che scappano dalle guerre. Sudan, Chad, Congo, Nigeria, Camerun, Zimbabwe. Più che domandarsi come fermare i barconi, bisognerebbe smettere di appoggiare i dittatori. E Yadema, Bongo, Biya, Kabila, Sassou, Gesso. Sono corrotti, ammazzano, torturano. Fanno affari con l'Italia e si fa finta di non sapere che esistono. Ma chi, in questi giorni, ha citato uno solo di questi dittatori che opprimono i loro popoli e che sono al potere da decenni? Quali sono i paesi dai quali scappano queste persone? Li conosciamo tutti? Perché non attaccare questi governanti corrotti, invece di attuare vuote politiche? L'Africa è ricchissima, ma la sua gente è poverissima. Che paradosso. Alla vostra radio intervengono tutti, tranne gli africani. Lontuono. Ho ascoltato l'intervento di Dario Fo, un attore che io adoro per le sue opere. L'impressione che ho tratto dal suo intervento è che in molti casi le personalità di cultura di sinistra o quantomeno critiche nei confronti della destra spesso dovrebbero limitarsi a fare il loro mestiere, siano essi attori, cantanti, poeti o quant'altro. Intervenire anche su argomenti politici solo perché si è personalità di spicco del mondo dell'arte e della cultura non significa fare bella figura e dire delle cose corrette o fare proposte interessanti, come è stato proprio il caso di Dario Fo, che si è limitato a dire che il governo fa propaganda, lo sanno tutti, e che ci sono altri problemi. Anche questo lo sappiamo bene, ma ci sono anche questi. Insomma, mi sembra che se da una parte si rimprovera alla destra di voler attirare gli elettori con belle gambe di veline, dall'altra si tenta un esperimento simile, proponendo grandi cervelli altrettanto incapaci politicamente. Dario Fo giovedì sera ha fatto del benaltrismo, del qualunquismo e tutto il peggio che si possa fare in queste situazioni. Un vero peccato. Michele. Dario Fo è stato chiarissimo. Via mare arriva una percentuale bassa degli immigrati e su questa minoranza si sta costruendo pura propaganda. È ovvio che chi arriva via mare lo si deve controllare all'arrivo. Chi ha diritto a rimanere rimane, chi non ha diritto lo si rimpatria, naturalmente senza mandarlo a morire nelle mani di un dittatore come Gheddafi. Fabio, La Spezia. L'ottimo premio Nobel Dario Fo parla di una scala di valori. Al primo posto la crisi, poi la sanità, poi eccetera, e solo alla fine i barconi. Ha ragione. Infatti per il governo si sarebbe risolto già tutto semplicemente applicando una legge firmata da Giuliano Amato nel dicembre 2007. La crisi è mondiale e l'Italia sembra che non se la stia cavando peggio degli altri paesi. La sanità? Quali sono le regioni con più sprechi? Da chi sono governate? Di che colore sono il 70% delle direzioni sanitarie? A queste domande bisognerebbe rispondere. Infine, credo che i discorsi xenofobi appartengano soprattutto a chi si riempie la bocca di leggi razziali. Luigi. Dario Fo, come altri ascoltatori intervenuti giovedì sera, alla fine non riesce a dire nulla di davvero concreto in alternativa ai blocchi navali dei barconi. Fo ha chiuso l'intervento dicendo di accoglierli e poi, caso per caso, vedere chi può restare in Italia. Ma non è lo stesso Dario Fo che chiedeva la chiusura dei CPT? E allora dove li mettiamo gli stranieri mentre caso per caso esaminiamo le possibilità di accoglienza? A casa di Dario Fo, forse? Interessante il candore inconcludente delle anime nobili. Antonio, Bologna. Salve, Io ho ancora dubbi sulla gestione del passaggio dalla lira all'euro. Non è chiaro se la colpa dei rincari sia dell'euro in sé, o del malcostume di chi ha rincarato, o di chi non ha controllato a dovere. Ricordo bene che il passaggio negli altri paesi europei non ha avuto gli effetti che si sono osservati in Italia. Pertanto, a mio avviso, non si dovrebbero valutare i rincari solo come una conseguenza diretta del changeover. Andrea, Modena. Caro Andrea, sono passati 10 anni dall'introduzione della moneta unica europea e tornano periodicamente alla ribalta i problemi legati agli aumenti dei prezzi, provocati da quel passaggio dalla lira all'euro. Come lei giustamente osserva, le ragioni di molte anomalie in Italia sono state molteplici. Sono mancati i controlli e qualcuno se ne è approfittato. Ma ora, forse, dobbiamo considerare la fase del passaggio come appartenente alla storia. E possiamo e dobbiamo guardare alla moneta unica come una grande occasione che l'Italia è riuscita a cogliere e che proprio in questa fase di grave crisi economica mostra tutti i suoi lati positivi. È infatti grazie alla moneta unica che l'Europa può rispondere meglio alle esigenze di stabilità del mercato e che l'Italia, con il suo altissimo debito pubblico, può sfruttare positivamente con il livello particolarmente basso dei tassi di interesse. Senza la moneta unica ci ritroveremmo come negli anni Ottanta, con l'inflazione e le svalutazioni che portarono l'Italia sull'orlo della bancarotta. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.